C'è un omaggio, Emanuele Carnevali. Cosa rappresenta per te? Carnevali è un grande poeta che così mi è capitato per caso tra le mani, ho letto le sue storie, il suo diario. Sono rimasto, non dico che mi ha cambiato la vita, però me l'ha un po' spostata, voglio fare come lui, che va sempre, fa tardi la sera, mi piacciono tutte le donne, anche a pagamento alle volte. No, sto scherzando, però insomma è un grande scrittore precursore anche della letteratura nordamericana, quindi io volevo omaggiarlo per il fatto che nessuno si ricorda di lui, non c'è memoria ai Carnevali, quindi andrebbe un po' anche diffuso nelle scuole. Nella prima canzone ti fai un autoscatto e ti definisci il più inutile dell'inutile. Insieme a Carnevali, insieme a Ciampi, ci vuoi spiegare il motivo per cui ti senti così? Perché a te ti sembra di essere tanto utile sulla terra. Sto facendo umorismo, no? Perché vedi, a fare questo lavoro, insomma, questo lavoro che in realtà poi in inglese si chiama giocare, no? Play music, play guitar, in Francia lo stesso. In Italia non si chiama né giocare né lavoro, sei uno che ti possano anche dire vai a lavorare, inutile, a cominciare insomma dalle rispettive compagne, un domani anche i propri figli, no? Se non gli dai soldi per le vacanze, quindi diventi un inutile. E da questo essere sempre chiamato inutile mi piace farne una sorta di trofeo personale. E comunque è sempre stata una domanda che si faceva negli scritti di Carnevali e anche Ciampi, quando diceva o maestro o buffone, che importa, no? E Ciampi, Carnevali invece aveva degli scritti nei quali diceva, cercava proprio un motivo per poter vivere ancora, diceva, perché devo vivere ancora? Perché ho la cravatta che mi piace. Il tuo motivo invece? Perché ho paura di morire. Ok, è un grande motivo. Questo disco è un disco che ha tanti generi, c'è dentro la letteratura, c'è tanto cinema, e vanta anche una collaborazione con Francesco Bianconi, che ha scritto tra l'altro anche il singolo che si intitola Cielo e Terra. Com'è nata questa collaborazione? Così, grazie a un amico che ci ha fatto incontrare, lui ed io ci conoscevamo già tramite le canzoni, però di persona no, ci siamo trovati a Milano, nulla, da lì è nato questa anche sua voglia di darmi una mano, ecco. Lui ha commentato questa collaborazione dicendo: con Bob Rondelli si gode. Ma lì sarebbe meglio avessi detto questa cosa, comunque vabbè, se poi è per conto suo fa certe pratiche pensando a me, io cosa, cioè, non posso farci nulla, in genere preferisco che lo facciano le ragazze, ecco. No, lui, sì, cosa ha scritto, che comunque gli piace. Chiudendo gli occhi si vede Mastroianni, si vede Cristo, si vede tutti, cioè, ha fatto dei paragoni importanti. Ma anche un po' Lucigno lo si vede, sì, anche un po', sì. No, vabbè, sì, ovviamente sono anche pensieri molto gentili. Io, no, non mi piace nemmeno che il mio ego mi porti poi a crederci davvero, ecco. Se, preferisco, sì, stare nel mio mondo inutile. Allora facciamo così, suoniamo un pezzo e poi continuiamo questa chiacchierata. Va bene, avendo problemi di mal di gola, perché ci proverò, ma insomma tanto non è che se faccio bene una canzone voi proprio godete come il Bianconi, no? Cioè, se, è meraviglioso se, questa cosa di essere... È un po' strano. Sembra essere la televisione. Ora faccio Santoro, ci manca Santoro di là. Te cosa va? La chitarra va, va fuori. Ma ora non quando canta, ma quando parla va. Alla vado. Mi fa curioso. Questo brano si chiama Lo sento altro che io. Qualche volta sogno colori dell'estate e un treno che mi porta ad abbracciar mio padre come non è mai stato, l'abbraccio mai provato, l'amore ritrovato, per sempre perdonato, dolce mio risveglio, se qualche volta sogno, come ripescare le perle in fondo al mare. Qualche volta sogno rivivere quei giorni, l'abbraccio dei miei figli, i perdonati sbagli, dolce mio risveglio, se qualche volta sogno come ripescare le perle in fondo al mare. Spalanco il sole al giorno, se dolce il mio ricordo, e nel mio cuore sento il battito del mondo. Prendo 30, 50 ogni mezz'ora. C'è dei fischi, però, che qualcuno, o sei te che stai lì vicino e fa fischiare, te lo dico io. Perché se lo metti un attimino contro la cassa, fa così. Allora, vai, vai. Anche in questo pezzo, sul finale, nel disco c'è un finale anche questo. Fatto da Bianconi. È vero che con Cielo e Terra avete provato a partecipare a Sanremo? Sì, hanno mandato la cartolina. Fortunatamente non mi hanno preso. Però diciamo qualcuno del mio stato piace andare a Sanremo, ma tutti gli anni mi va bene e così non ci vado. Anche perché quest'anno era più Bardi il Sanremo, sì. Ecco, con quell'uomo lì che presentava tutto abbronzato, perché secondo me da quanti anni che lui lecca i culi la faccia gli è diventata di quel colore dei culi. Così non mi chiamerà mai più, ma nemmeno alle sue trasmissioni di me. Volete sentire? Di Conti. In televisione sei ospite quasi fisso di Gazzetta. Quella televisione ti piace? Ma mi sembra parecchio, ma parecchio già a me, perlomeno anche la sera tardi. Sicché poi dopo aver fatto il programma si va a fare anche cosa scipare a giro. No, però sto scherzando, ma Comunque ci sono anche a Zebo ci sono delle inchieste anche importanti, insomma. Non c'è nessun tipo di effetto, no. No, l'effetto è questo, a parte l'effetto sulla spina. No, allude che sono fatto. Gazebo è una trasmissione, sì, che comunque mostra una realtà vera e comunque vabbè è un bel gioco di satira sulla politica, ecco, fa anche ridere. Cioè fa vedere quanta demenzialità c'è in queste persone super pagate che sono dei politici e quanto mi viene voglia diventare a me qualunquista, perché io ne ho diritto in quanto non mi pagano. Loro sono qualunquisti super pagati. Ecco, secondo me anche a Zebo esce molto questo. Ci caschi nel qualunquismo? Sai, ma uno la può anche pensare come gli pare, può avere anche pensieri non qualunquisti, però alla fine è proprio difficile di questi tempi poter fare qualcosa per migliorare il mondo, ecco. Quindi per non arrabbiarmi, che può anche dire, sono contrario alle truppe italiane. Può abbassare a Bobo? Nei paesi arabi, però loro ti dicono ritireremo le truppe, in realtà lo dicono all'inizio del poi mentono, quindi mi sono rotto anche le palle di credere in qualcuno di loro. Aspetta, sentite fuori. Se Bobo parla davanti al microfono. Te quando parli parla davanti. Lo so, ma la labbra l'ho abbassato il volume perché mi sfonda l'orecchio a me. Allora si va, vai, bene, bene. Basta, dì, è vero. Vai. Devo guardare lui, parlare così. Io però se mi avvicino fischio, quindi... No, vai tranquillo. No, vai. No, va bene così. Domani si può dire che è tuo compleanno? Si può dire anche quanti anni fai? 27. E in questi 27 anni... si può tracciare un bilancio della tua carriera artistica e musicale? Lo devo fare io? Ma sì. E chi si ricorda? Qual è il rimpianto più grande che hai? Probabilmente quello di essere venuto al mondo, guarda. Non ho rimpianti, di tutto va come va. Se cominci a pensare di non voler arrivare da nessuna parte, no? E passare questi probabilmente 20-25 anni che mi restano, perché devo pensare che ho sbagliato, sarei stare meglio. Io comincio proprio forse a stare bene ora perché ho staccato quest'idea di dover arrivare e quindi di viversi anche la giornata come un grande regalo, giorno per giorno, ecco. E poi in ogni modo il fallimento è lo stato di grazia dell'innocenza, questa è la mia filosofia. Bellissima. Hai detto, mio più grande rimpianto è quello di essere venuto al mondo, scherzando, in questo disco c'è anche una canzone dedicata a tua madre, la tua mamma. Ce la vuoi raccontare? E ho letto in un'intervista che era un modo per chiedere scusa, ma anche per comunque parlare di una situazione personale, lavorativa di un tempo, però magari è anche abbastanza contemporanea. Sì, appunto, vabbè, sì, mia madre di padre, quindi in all'età di 13 anni lavorava come una schiava, insomma, tipo 10 ore al giorno. In più anche il proprietario del potere la importunava e tra l'altro un'amica fu anche violentata, no? E ovviamente il proprietario della terra mise tutto a tacere con qualche soldo, no? E ecco, queste ingiustizie secondo me mia madre l'ha vissute tutta la vita. Prima di morire in vecchiaia tirava fuori in continuazione, anche perché col cattolicesimo di allora una bambina si poneva anche il fatto di essere lei responsabile e aver provocato ed erotizzato, insomma, il lurido vecchio porco, E quindi immagino il vivere di questa bambina che era mia madre, no? E la sua amichetta. Quindi mi sono sentito sì di omaggiare, di ricordare cosa è successo, ancora succede, di gente che ancora vive in schiavitù. E io provo veramente orrore e schifo quando penso a uomini che schiavizzano altri uomini. Ah. E poi magari c'hanno i canini che gli danno i bacini, gli comprano il macinato e gli mettono un vestitino quando piove. Il negozio non è così trasformato. Ma magari si mette la dopo si mette. Si mette, io faccio il progetto. Tutto può bene anche i conti, ma la telefonata e tutto. Un'altra canzone che mi è piaciuta di questo disco è La Statale Cosmica. Qui si parla di province, della voglia di andare via, di scappare dalla provincia. Però l'andare via da Livorno ti è mai venuto in mente? Dalle tue parole non sembra. Della canzone dici? No, in generale, nelle varie occasioni in cui ti ho sentito parlare, a Livorno, tra il bene e il male, però ci stai bene o no? Vabbè, a Livorno ho avuto fino a un po' di tempo fa mia madre che quasi mi manteneva. Non è così, però ho due figli a Livorno, quindi non ho proprio idea di andare da nessuna parte. Se uno fa i figli, poi dove vuoi che vada, no? Però quando ero ragazzo un po' provai, andai anche a Londra a fare un'esperienza musicale. Più che altro, diciamo, dormivo nelle case abbandonate, ho lavorato a far gelati per un po', insomma, poi ho venduto chitarre e tutto e sono tornato a casa. Bobo, non devi gelataio. Now I was making up slowly, you know, when I decide slowly, you know, you're staying this factory and in your hand you have the packet and in the other hand you put an eye slowly. Eye slowly is just you call in Italian, it's something like a ghiacciolo. And late at night the boss of the place put up in my back this ghiacciolo, you know what he's fucking doing. So I called the police and I went back home in the barn. Tanto che una capitale capace è madrelingua inglese. Però la condizione di vivere in provincia, no? Io vengo da Prato, anche lì, cioè nel senso c'è una situazione differente, però c'è sempre la voglia di andare verso la città, la metropoli, ancora oggi, no? Secondo me dovresti trovare una donna ricca col potere, tutti gli animali, anche vecchia, si muore prima, come i piccioni, muoiono prima le persone, tutto. Perché al Grossetto c'era una sciavana tenuta, no, vabbè, capisco però che le città grandi hanno più stimoli, però vorrei proprio citare, visto che ne ho parlato prima, di una frase di mia madre, che quando vedeva aeroplani di turisti che purtroppo cadevano, insomma, anche quelli dello shuttle che tentavano esplorazioni spaziali, il commento suo alla notizia era: se stavi a casa tua non ti succedeva. È un vecchio modo di dire che poveri, probabilmente anche arrabbiati, che non andavano mai da nessuna parte. Oppure anche l'uscire di casa, per uscire di casa mia madre commentava sempre: ma cosa ci vai fuori a vedere che fa? A vedere chi c'è, la tre puttane. Appunto. Però poi mi diceva anche: cosa vai in giro in centro a vedere chi c'ha la testa più grossa? A vedere chi c'ha la testa. E questa frase appunto l'ho messa nella canzone perché erano le sue tre frasi celebri, no? L'altra frase era: oggi è tutto, buonasera e toma. Questa che in verità non è poi così, perché Livorno non è così restia alla sessualità, perché essendo una città di mare, insomma, le madri hanno proprio tradizione di trattenere le figlie, quindi se ti fidanzi devi andare a conoscere i genitori. Chi è questo? Che lavoro fai, giovanotto? Cosa fai? Cioè, ti fanno le ti chiedono il lavoro che fai, cosa, di che famiglia sei, insomma. Ci fai ascoltare un'altra canzone? Volendo, a saperle, ma lei che figura lui, le mani in tasca. No. Potrebbe essere un modo nuovo di far concerto, non senti nessuno. Fanno tutti a fan pure. Dimmi, cosa fa? Dimmi roba marce. Allora faccio la canzone. Questa è proprio la canzone dedicata al poeta Emanuele Carnevali. La frase che proprio mi ha colpito, a dire la verità, sta anche in Wikipedia, quindi magari non ho letto proprio nulla, vi sto prendendo per il tutto. Però la frase è: semino parole dalla tasca bucata. E questa frase mi ha fatto continuare la canzone, tra gioco di parole di lui Carnevali e coriandoli che escano dalle tasche, perché i Carnevali sono coriandoli. Parole dalla tasca bucata, coriandoli che lasciano colori nelle strade grigie. Sto come Carnevali ed altri poeti guaritori dell'inutile. Cosa puoi sapere, anima vile? Hai scelto le tasche sicure per i sogni facili. Da me che cosa puoi volere? Io costo molto anche più caro dell'inutile, perché sono io il più inutile dell'inutile. C'hai le tasche bucate e le mani cercano le palline andate e non le trovi. Ora te le compra tua madre, poi prendi il suo borsellino, hai un bel furtino. non è riuscito a improvvisare bene per lo stesso, vabbè, fallo qua. Mi piace guardare lui, sì. Thank you. però non è che io mi sono difeso. Mi sei rimasto a te, vero? Sì? Da nonni anche. Allora c'è speranza. Il disco si chiude con un altro tributo. Ci vuoi raccontare la storia del maestro Goldschmidt? Il maestro Goldschmidt, appunto, vabbè, sì. Il maestro Goldschmidt è una storia dolorosa, insomma, perché era un maestro pedagogo, insomma, diciamo, gestiva e aiutava bambini in un orfanotrofio, no? Quindi durante la guerra questo maestro di origine ebraica era pure una persona molto conosciuta, importante. Quando cominciò la deportazione, il maestro Goldschmidt avrebbe potuto trovare la salvezza, in quanto conosceva persone anche influenti, e invece scelse, insomma, di accompagnare i propri bambini nel treno, insomma, salì anche lui fino al campo di sterminio, pare poi sia morto durante il viaggio, ecco. E così ho voluto ricordare questa figura, insomma, perché non aprire scuole al mio ricordo, insomma, del gesto estremo. E così, non solo, secondo me, nemmeno eroico, veramente oltre del maestro Cosmi. E quindi con la canzoncina uno tende semplicemente a voler diffondere un po' una cosa buona da dire. Ecco. Ho letto in un'intervista che hai definito il suo gesto un gesto poetico, vero? Poesia vuol dire comunque colui che fa. Caro mio, se hai studiato un po' di greco invece di fare interviste, che cazzo, dal greco poesia è colui che fa, quindi per cui un uomo così, che cazzo, fa tantissimo. No, però veramente si confonde alle volte, che se uno parla bene, scrive bene, suona bene, sia un poeta, ma il poeta è anche il calzolaio che fa le scarpe come si deve. È lui che sta qui e m'ascolta, che è un po' imbarazzatino, ma sta lo stesso. C'è tanta poesia a giro, ecco, e questo. Ce la suoni? Prova a suonarla, vai, sì. Sembra strano, ma non ho ancora studiato. Lo farò prima del concerto, ovviamente. Perché è settimana prossima, tra l'altro. No, ma va bene, però sono pronto. Però capita che quando ti esce il tuo disco, te in modo perverso ascolti proprio dischi bellissimi già usciti in una storia, per dirti, Madonna, ma fai proprio cagare. Mi sento David Bowie, mi sento, ma prendi i dischi, diciamo, miliari, mi succede sempre così, non lo so perché, vabbè, dici. Poi comunque le canzoni non devono piacere a me, quelle che faccio. Ringo Starr diceva in una canzone: continuate a comprare i miei dischi affinché io possa continuare ad annusare le rose del mio giardino. E forse annusare anche Marco Sanz. Lui, io non c'ho manco il giardino. Annusare, diciamo, l'origine del mondo di Corbet. Dagli occhi tuoi girotondi di bambini che si prendono per mano sotto un grande arcobaleno, perché tu hai il mistero dell'amore, gioia di contemplazione, mentre altri cuori corrono felici. Negli occhi tuoi c'è uno specchio dove vedo essere come io vorrei. Negli occhi tuoi c'è l'immensità del cielo che si apre e si fa puro e si riempie del divino. e vai cantando coi bambini la gloria del trionfo dell'amore. Negli occhi tuoi c'è uno specchio dove vedo esser come io vorrei. Tenetevi per mano che presto arriveremo verso l'arcobaleno. Tenetevi per mano che presto noi saremo verso l'arcobaleno. Il 24 marzo inizia il tuo tour a Lobby Hall a Firenze, vero? Correggimi se sbaglio. Sembra. E lì promettiamo che sai tutte le canzoni. No, non le so già tutte, solo canto anche così in vetrina, chitarra sola, cosa non è che poi me le preparo a casa da solo. Ti piace stare in studio di registrazione a te? Sì, ma non ci sono mai le ragazze, sempre tra uomini. No, vabbè, mi piace le registrazioni, però mi piace anche che ci sia qualcuno che sa occuparsi bene di te, in questo caso Filippo Gatti, insomma, ho delegato molto anche per fare una regia sonora giusta, ecco, anche dei tagli. Qual era l'idea di disco che avevate in mente, che avete studiato quando avete iniziato a lavorare a questo disco? Ricostruire un po' il cammino di queste canzoni, insomma, in una canzone diciamo sono io e mia madre, un'altra sono io e mio figlio, un'altra sono io e una diciamo 25enne, va. Ventenne vuol dire da 20 a 30. A 29. Per cui, e poi se anche 29enne, vabbè. Il titolo originale era La Ventenne, poi me ne sono un po' vergognato, poi, e quindi ho cambiato titolo La Voglia Matta, che è un film dove Tognazzi, appunto, un film di Salce, dove il personaggio di Tognazzi si innamora di Catherine Spack, che penso fosse una tra le ragazze più belle del mondo, ovviamente, però aveva penso addirittura 17 anni lei nel film, forse era nel maggiore. E alle volte bisogna essere anche meno ipocriti, perché io quando un genere mi giro a guardare una ragazza, cioè dai 20 a 30, diciamo 25, se no non mi giro. E quindi è giusto ammettere poi... Sì, ma però tu non vuoi sapere di cosa io penso dentro. Non tanto, mi piace proprio come cammini, piace proprio, no, sto scherzando, però alle volte si è un po' ipocriti su questo fatto, anche se poi la condivisione dell'amore è anche un'altra faccenda. Ok, tra i 20 e i 30. Piove fuori, no? No, ok. Ma questi rimangono qui lo stesso, aspettano Carlo Conte. Potete cambiare anche canale, c'è il TG. No, ma anche noi siamo noi la televisione. Sì, no, adesso c'è Santoro lì, c'è la trasmissione lì a canale 4 di quel fascistone toscano, ma chi è quello di Salvini c'è sempre, ma di quello è vero che ti avevamo chiesto di sostituire Morgan a X Factor. No, è successo, non dico mai cazzate. No. Le dico, una leggenda, ecco. No. Cioè dico cazzate, sì, ma questo, sui fatti no. Sì, mi capitò di dover andare lì, insomma, cioè, ovviamente i discografici, vai, io invece dico, ma a me X Factor non mi piace proprio l'idea anche di fare uno spettacolo dove chi canta meglio. Bisognerebbe valorizzare anche la scrittura, no? Perché se io vado in palestra mi viene un braccio così, ma resto un cretino col braccio così, no? E invece lo scrivere canzoni è un'altra faccenda, che X Factor comunque non propone, no? Sono lì a gareggiare, poi a parte è uscito fuori quello lì con la barbetta. Come si chiama il canto con quella voce lì, madonna, ma lasciamo perdere. Quello di Buono. Mengoni, sì. Mamma mia, avessi un culo carella Meloria. Si dice a Livorno, Meloria è un posto sul mare. E insomma, capitavo via a questa riunione, io poi ho pensato, madonna, risolve Equitalia quasi, un cioppio di Equitalia sul collo, perlomeno per un po'. Insomma, quelli ritorno, a volte ritorno, e andare a questa riunione, diciamo, esordì così. Dopo Morgan, perché ci fu, infatti, lui faceva uso di sostanze, fece una dichiarazione forte e gli disse: dopo Morgan, ora cercate uno spacciatore. era già mia intenzione un po' fammi buttare fuori. Loro un po' risero, però scherza sempre la Rondella, hai visto? La Rondella scherza sempre. E poi c'erano lì il figlio dei Pooh, anche lui, a me l'ho ancora. No, lungo orgoglio, guarda. Quello dei Pooh, come si chiama il figlio dei Pooh? Facchinetti, c'hanno quegli occhi satanici. Madonna. E poi mi fece, ma scusa, ma tu non guardi X Factor? La sera io ho molte meno cose a fare, posso guardare la televisione, cioè, no. Mi piace uscire e lui fa, ma scusa, allora perché sei venuto qua? E ho detto, perché? Per i soldi. E te come mai sei qua? Te saresti, non saresti qua per i soldi? Anche lì che dissero, ma poi la richiameremo Roberto. Ma è che proprio tanto non mi sarei sentito lì, chissà cosa avrei combinato. È un bene che io non vada dove non devo andare. Ma te sì, segui. No, io vado in televisione, ragazzi. Sono in diretta, no? E di folla mi figlio che c'è 18 anni. Oggi c'è, stasera c'è Babbo in televisione. Ma c'è X Factor, neanche guardi te, ti vedo anche vesti, tanti lanzoni qua, ti vedetti in televisione. Alla fine sono contento. Mi urta un po' quando gli piace Tiziano Ferro, perché anche lui tutto con le Maldive. Anche se è bravo, ammetto, ma insomma, tutta la messa dell'amore lasciati, sembra lasciano altre lui. Noi mi ha lasciato, altre lui lasciano. Mentre tuo figliolo che cosa ascolta? Mi figliolo un po' Vasco Rossi da sé, oppure ascolta, non lo so. Babbo? Secondo me comincia ad andare su YouPorn parecchio, c'ho 13 anni, lo vedo sempre un po' stanchino lì, le borse all'occhio, i brufoloni. No, non è che io gli dico se devo ascoltare, ovviamente se mi chiede di farmi la chitarra, gli faccio sempre Smoke on the Water. Vabbè. Sono Smoke on the Water a questa età. E come faccio? Fumo nell'acqua, il fuoco è nel cielo. È una versione di uno Fat The Boys, anche lui. Però io faccio nomi, ma insomma. Fumo nell'acqua, il fuoco è nel cielo. Sono le parole che dovrebbe scrivere lui, queste parole sì, immense. Parole immense. Okay. Tutti alla Meloria! Intervistando Fiumani qualche settimana fa mi disse che due cose che ti voglio riproporre e ti voglio far commentare e voglio sapere la tua opinione. uno perché faceva musica per i soldi e per le donne, così mi disse. E cosa rimpiangeva di 20 anni fa? Lo schizzo. Rimpiangeva il fatto che con le donne aveva molto più successo durante l'intimità, insomma. Anche tu hai queste... Cioè, possiamo dirlo, come lo sia? Le prestazioni... A quella roba lì. Proprio questo, lui mi disse testuale parole questo. Cosa vi chiede? Sì, anche tu tra i rimpianti vuoi del passato... Vuoi sapere se metto in culo? No! Sì, tra i rimpianti della gioventù c'è ancora questa a 52 anni domani. Eccoci. Oh, è 27. Ah, il rimpianto di cosa? Di non aver fatto abbastanza. No, qual è il tuo più grande ritorno lì? Il tuo rimpianto del di... No, invece era una domanda che volevo fare, era una domanda che mi interessava sapere, ripensando a 20 anni fa, come ti vedi te, Bob Rondelli ora, ripensando a Bob Rondelli di 20 anni fa? Vuoi sapere se si alza? Questo è solo per fare pubblicità oltre. Esiste una sostanza, comincia con la C e finisce con la S. Poi ce n'è una con la V e finisce con l'A, quella la sconsiglio, ma il C e S va bene. No, dici cosa rimpiango? Ma no, sì, è vero che si lo diceva comunque Guccini. Canto qualche cosa, cantare, non so cosa, fischi, cos'era? Se io avessi visto tutto questo, faticato, canto perché sono baccare, dice canto perché sono baccare, sì. E quindi è sempre, è chiaro che uno pieno di brufoli tipo me, che uscivo con la cipria per lo schifo che mi faceva, mi amavano l'incipriato, ma non per motivi di vergogni lì, questi mengoni. Io mi incipriavo per nascondere tutti questi brufoli, facevano le cose, ti fanno lasciamo finire la vita se tutto che è queste belle donzelle di Guarnizzi, non so a Luca, ma di Guarnizzi, e io da lì presi la chitarra, e la chitarra diciamo una... però canta bene, però fa qualcosa, però perché sì, in certe anche comunità africane, no? Perché io ho studiato anche quella roba, insomma, la storia vedo tutto. Cioè, praticamente il padre della tribù va a scegliere il marito della moglie in base a come balla e canta. Cioè, il canto e il ballo è un riconoscimento anche di guerriero in tempo di pace. E quindi da lì io ho detto, è grande, sì, in effetti comunque il canto, la danza richiede anche una conoscenza, se vogliamo, di uomo che sa sempre provvedere e portare da mangiare a casa. E quindi può essere che te la danno più facilmente. Questo sì, però principalmente l'arem non è finito, perché se uno è pieno di soldi, ha visto gli arcori, quello era l'arem personale, privato, poi... imbecille chiedili i documenti, no? Informati, no? Non è che poi sia un è proprio il minimo quel che ha fatto secondo me il Cavaliere Nero, no? Quello è servito apposta, hanno fatto uscire apposta Vella per scagionarlo completamente, insomma, lasciamo perdere. Cambiamo argomento. Sì. Fai un pezzo. L'argomento va calmato. Un pezzo del disco, sì. E questo è inedito, non è uscito, forse la stiamo preparando come ghost track. She would never say where she came from. Yesterday no matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on question why she need to be so free. Vedi come la so tutta, lo sai perché? Perché con questa ci becchi le pietre. Dying over time, lose your dreams and you will lose your mind. And life unkind. E non me l'hanno mai fatta mettere nel disco perché dice è troppo bella, poi dopo quale farai dopo? No, vabbè, effettivamente dopo questa non è che uno può andare avanti, dice c'è una canzoncina, no, nella scaletta si fa questa alla terza, poi dopo la gente fa basta, balla veloria! Perché ho visto lì che c'è una chitarra di Ciro autografata ai Rolling Stones, secondo me l'ha fatta lui, e spera di venderla tra un po' e sta diffondendo questa leggenda per farci due soldi, perché tra un po' farà finta di essere diventato tossico, guarda te la do per 500 euro, c'è il film di Kizzy, c'è anche io c'ho il prezzo di David Gilmour, vedi, se volete poi lo tiro, però al di là del tempo. Però non si può, c'è la Gilmour, me ne pimpo, sai me ne pimpo, ti ho prezzo, sì, e l'ho preso io, c'avevo anche, c'avevo i 2 euro di Luigi Tecco, diciamo, che non c'ho io, cazzo, e vengo. E da lì c'ho una cosa in comune con Keith Richards, nel senso che anch'io ho fatto il Boy Scout e poi ho preso Keith Richards chitarrista Rolling Stones, insomma, e ho preso anche certi percorsi. Bobo Rondelli strani. Boy Scout è uguale Bobo Rondelli gelataio, cioè raccontaci qualcosa, no, Bobo Rondelli Boy Scout, Keith Richards Boy Scout, lasciamo perdere poi il percorso di Keith Richards, tanto si sa i Rondelli diciamo un po' meno, però perché non c'aveva sui soldi, no? E comunque invece Renzi, percorso Boy Scout, è ancora Boy Scout, cioè la massoneria Boy Scout che esiste, eh? Non si può dire, se no poi dopo c'è. No, si può dire. Se sei un massone, lo sanno tutti. Ora vedete. No, mi ricordo il proclama di Terra per il 1° maggio, che faceva tutto un discorso rivoluzionario, però truccato e vestito quasi a me la Carrà. Perché non lo vedevo credibile, ecco. Che ne pensi di questa evoluzione televisiva di Piero? No, vabbè, la solita visione, come mai sei qui? Per i soldi. Non credo, spero non si sia galvanizzato, cioè è comprensibile comunque che uno è. Anch'io ho fatto il gigolo per diversi anni. E te hai avuto un periodo. In un periodo della tua carriera hai anche fatto del teatro, hai mai pensato di tornare a farlo? No, perché pagano poco e niente. La musica? Il cinema penso di farlo, non posso proprio dirlo, ma sarò presto, magari frammento pochi secondi, ci sarò, no? In un film importante, sì, ma dopo tu capisci aver fatto del cinema. Effettivamente anche sì, con Federico Perdini abbiamo fatto quel cinema che era cinema, ma oggi come si può dire faccio teatro, faccio cinema? Lo sai benissimo anche tu, insomma, cosa mi stai chiedendo? Ecco, bravo Marcellino, sì, diglielo perché io non ho fatto più voglia di concedere interviste. Se ci sei tu, e poi tu andiamo avanti, poi facciamo un ciak e l'altro, ci facciamo due tonnette e ci divertiamo un po' e poi ci ritorniamo un altro ciak. No, perché ho avuto una malattia seria, io perché praticamente mi entrava dentro Marcello Mastroianni, sì, non riuscivo a farlo più uscire dal mio corpo, perché sono di farlo alle donne per telefono, voi capite, poi da voi ti si impadronisce proprio la persona e tutto quello che pensa anche lui, quello che pensava proprio lui, sì, ero sempre, ma che ci faccio io qui dentro di te, babbo, io avevo una faccia migliore, sai, non so quella faccia cretino, e non sapevo proprio come uscire da questa storia, andavo dallo psicologo, mi curò, insomma, dopo svariate sedute, insomma, ce la feci a far uscire Mastroianni dal mio corpo. Però... quindi pagai la parcella, la ringrazio tanto, dottore, lei mi ha aiutato tantissimo, sa. Scusi, ma per un super cazzo fotografiamo uno scampanamento da destra. Dove deve andare? Destra, sinistra? Si divento matto io, si divento matto. Con le cazzate acrobatiche che si fanno vocare, insomma. Per esempio, sono stato buddista per un periodo della mia vita. Sono stato buddista, no, facevo un personaggio perché esplose a Livorno il buddismo, no? Ma erano diventati tutti buddisti, praticamente ex tossici, insomma, in quell'ambiente dove anch'io, diciamo la verità, gravitavo, tutti un'ondata di buddismo, e conobbi uno che secondo me proprio lo rifaccio così com'era, lo cambio poche virgole, faceva. Che veniva in giro e faceva: ragazzi, lo sapete, sono un buddista, vi ricordate come ci siamo prima? Grossa, no? Poi il dottore mi disse: guarda, te ce l'ha per tre cate, c'ho un male alla gola, sai? Vieni, andare all'ospedale dove c'era uno che faceva pratica buddista, perché lui si era fatto delle vene, è stato tosse, capito? Quindi recitando era guarito, allora anche io diventa buddista, no? E ora, facendo buddismo, la voce mi sta ritornando prima com'è, sta sentendo, ha sentito la differenza di voce? Te dirai, te fate gli sforzi ginnici, vocali a casa e poi me li fa sentire. No, ma non sono cazzate, c'era uno, ci vedeva da qui a lì, Dio buono, ora vede la Torre Eiffel da Livorno, ma non so, poi si allungate la gamba, non sono cazzate, capito? Ti metti lì, capito? Ti prega, capito? Perché è un'energia vitale che parte di me, no? Cioè parte lo stomaco, no? E ti gira lì dentro, no? E poi guardi i pianeti, il cosmo, no? Cioè la luna si muove, il sole si muove, la terra gira, capito? E te cominci a girare con l'universo, capito? Non sono cazzati, prima guarda, fumavo, ora non fumo più, ma qua sono buddista. Poi ti ho ottenuto benefici, casa, topa, lavoro, ma di tutto. Ma perché? Non sono cacciato, vedi, resisti al buddismo. Vi arrivo da casa che c'è una radio importante che si chiama Radio Buddha International, da Follonia. E ora vado a sentire, ci senti domani. C'era quattro voci che avevo registrato, facevano mio regno. Buonasera, siete sintonizzati con Radio Buddha International da Polonia. Vi auguro una buona buddata per stamattina, auguri ai buddini maschi. Qui ogni giorno arrivano delle lettere. Mi fate un po' di namiore. Qui ogni giorno arrivano delle lettere. Questa è di un certo Mario. Mi facevo le pene, non avevo lavoro, vagavo come merda nei tubi, ma il Buddha mi trovò. Ora percepisco lo stipendio di 3.000 euro al mese, lavoro in banca, ho quattro figlioli, madonna, buona, chi sta meglio di me? Grazie Buddha, bravo Mario, sei entrato nel karma giusto, sei stato in sintonia con l'universo. Buonasera a tutti, ora vi lascio la sigla delle trasmissioni. E Nami Ore Genghia! La sigla era questa. Nami Ore Genghia! Nami Ore Genghia! Nami Ore Genghia! E proprio c'è. In culo al mondo! Mi permetto di farlo perché su quell'altro non si può tanto scherzare, quindi su Buddha il Buddha di Tumà, poi noi ce l'abbiamo proprio il Buddha, il Buddha di Tumà, cioè ha un'origine buddista, Buddha di Tumà. Ok, allora, come carnevali, Bobo Rondelli, una canzone singola, vai, sì, forse l'ho imparato. Ok, allora ci salutiamo con questa. Sì, ecco, vorrei di qualcos'altro. No, niente, il 24 sei in concerto a Lobiotto, lo ricordo a te. Ricorda di Radio Buddha a Firenze. A Firenze, a Lobiotto, Radio Buddha International, la mia ora in inglio, e buona serata a tutti con questa canzone. E grazie Bobo Rondelli. Abbiami l'anima e portami via di qua, a trovare parole e posti non visti mai, e inventami suoni che sapremo solo noi, noi due come l'angelo che imita Dio, vogliamo in alto ma cadiamo giù. Ma se tu lo vorrai non moriremo più, l'amore ha scelto noi per arrivare lassù, l'amore lo sa il cielo, lo sa soltanto il cielo, azzurro più del cielo. Cancella la logica e portami dentro un bar, a trovare la rumba e il tango come tu già sai, e inventami suoni che sapremo solo noi, e noi come l'angelo che imita Dio, vogliamo in alto ma cadiamo giù. Ma se tu lo vorrai sarà un'estate in più, l'amore ha scelto noi, ci fa morire qua giù, l'amore lo sa il cielo, lo sa soltanto il cielo, azzurro più del cielo è l'amore. Marciapiedi per le strade, nella metrica di Dante, nella pioggia ovunque cava, e la voce del cantante, nella vita che degrada, e nel tempo che farà. L'amore in cielo e in terra, esplode sulla terra, l'inferno sulla terra, e l'amore. L'estrattore si è suicidato. Verona, l'estrattore è stato linciato. Lucca, Lotto non pervenuto. 15. Infatti, poi ci sono una foto loro.